tra paesi e alleati e amici. Sai, appena ti giri in certi ambienti ti fatto la pugnalata, oh scusa, non me ne ero accorto che tu pugnalato, capito, è quasi automatica, tutto lì. Claudio, raccontaci un po' cosa stai cucinando di bello. Non lo so, io stavo facendo i lavoretti nella trattoria del Carvedio, non lo so cosa stanno cucinando, ma non lo so, intanto adesso me ne vado a cenare, sono entrato a salutarvi, niente. Vabbè, dimmi se è tutto a posto, che ho messo la batteria a quella radio e segnale, tutto ok? La radio è spettacolare, bella, forte, potente, la tua, il segnale 9+30, cosa vuol dire più dalla vita? Un tucano, così ci dici. 9+30, picchi positivi ce n'è? Tutto a posto? Assolutamente sì. 30, 32, 31, 34. No, ma non esagerare, sì, 9.30 con i bicchieri. E li piano che me li gioco. Quindi 9.30 con picchi positivi, va bene, ottimo. Ciao a Natalino, ciao Gianfranco, ciao a te, dai. Io vi saluto e passo in QRT. Sono andato a salutarvi, stavo facendo quel lavoretto anche, oh Roberto, che tu sai. Adesso vediamo se domani mattina rimane com'è e adesso va bene, altrimenti devo darlo al dottore. Ok, ciao. Ehi, a poi quella domanda che ti ho fatto stamattina di quella scatola, parliamo la scatola, ho detto volgarmente, che tu mi hai detto c'è roba dentro, se è ne parliamo. Ehi, va bene, d'accordo. Ehi, vai, sei un Natalino, salutiamo l'amico Claudio e poi Gianfranco. Ciao Cla, buon proseguimento, buona cena alle prussi. Vai Gianfranco. Natali, passi in mezzo strada, ho sentito una macchina che è passata a tutta velocità. Attento sulle strisce. Ciao Claudio, buona serata. Ehi Gianfranco, cosa vuoi che ti dica? Già me ne stavano buttando un po' di tempo fa dalle strisce pedonali proprio. Se non mi avviso che era distratto, ho saltato la macchina, se no mi beccava in pieno. Ora beh, ma dice delle cose ovvie, ma secondo te i pedoni dove si investono? Sulle strisce o fuori dalle strisce? Sulle strisce ovviamente, o no? Beh, me la racconto una storia riguardo delle strisce, che io mi sto battendo per quello che posso battere, è una discussione, sempre a livello di discussione. In Inghilterra hanno tolto le strisce pedonali e ha diminuito le persone, i pedoni investiti del 95%, hanno lasciato le strisce pedonali solo dove ci sono i semafori, per cui tu quando attraversi, tipo che ti attraversi dalla 131, ci apri gli occhi, stai attento, guardi la macchina che sia a 200 metri e non attraversi. Sono diminuiti del 95% gli incidenti verso i pedoni, perché la gente ci sta attenta. Cosa tante volte a me mi capita, e sono probabilmente fortunato e non li invento, gente che te ne esce così di colpo senza guardare, e poi molte volte queste strisce pedonali sono nelle curve, basta salire dove ci sono i vigili del fuoco, fai la curva e ti trovi la striscia pedonale di colpo. A Monserrato, dove c'è l'ex palazzo Telecom, giri da quella rotatura e c'è la striscia pedonale in curva. Se trovi in quel momento lì uno che attraversa e tu non conosci quella striscia pedonale, lo schiacci. Guarda, anche Natalino te lo può spiegare perché. Allora, gli inglesi oramai, con tutto quello che hanno avuto di cose, delle strisce ne possono anche fare a meno, perché sono sempre una cosa dell'Europa e loro pare che non vogliamo più niente dell'Europa, neanche gli scaffali pieni. Da noi invece le strisce le mettono, e lo sai perché? Le mettono perché ci sono gli anziani e quindi dicono, queste strisce le attraversano gli anziani perché di norma sono abbastanza diligenti, no? E soprattutto più anziani sono, quindi sono già vecchi, le attraversano piano piano, quindi ovviamente qualcuno prima o poi lo pizzicano, e per l'INPS questo è tutto un guadagno, vero Natali? Certo che sì. Ma tu lo stai dicendo scherzando, ma sai quanto ha guadagnato? Più di 1 miliardo di euro l'INPS dal Covid. E quanta gente che è morta, mi sembrerebbe strano che non ci abbiamo guadagnato, perché sempre di me la ragione. Qua guarda, io ho tante sei colleghi che a volte lo diciamo per scherzo, però lo scherzo è sempre meno scherzo, perché vanno in pensione, poi lo cerco, ma cosa, io non ho più cosa, ma guarda che è morto, come è morto, è andato 2-3 mesi fa in pensione, è morto, cavolo, qua bisogna stare attenti, ci hanno i pindacci, capito? No, a proposito, una brutta notizia, Claudio, lo dico a te che tu lo conoscevi, lo sai che è morto, no? C'è Claudio, non so se lo conoscete, lo conoscevate, quel poverino è morto, ci siamo sentiti 2 settimane fa, Giulio Tavuni, lo conoscete? No, io no, qual è quello del Fero Vecchio? Eia, poverino. È appena andato in pensione. Che pensione, che giovane. C'aveva un dolore al braccio, me l'ha raccontato mio cognato, io lo conosco molto molto bene da quando siamo nati, ci conosciamo. Sono andato, ripeto, 2 settimane fa, mi ha chiesto una cortesia. È andato con un dolore al braccio, il classico dolore sintomo di infarto, è andato di lì, il medico appena l'ha visto, vieni che ti faccio ricoverare immediatamente. No, no, no, me ne vado. Se è andato, è sceso dalle scale, è fulminato, morto. Ed è così che funziona. Lo vuoi vedere a Claudio, che Claudio lo conosce sicuramente. Chi sei qua? Nulla. Natale, tu lo conoscevi? Adesso non ce l'ho presente. Già ci sono stato parecchie volte lì, al Fero Vecchio. E così è successo a me. Però io mi sono occupato di Spagna, in ambulanza mi sono fatto portare via, perché io sapevo i sintomi, ho detto questo è infarto, e siccome a me mi conoscevano, quando ho telefonato al 118 hanno mandato l'ambulanza subito. Natali, dai, ti facciamo un bel memorial. Aspetta, c'è Marcale. Già, fai, facciamo primo memorial a Natalino. Memorial dell'ex pasticceri. Dai, io vi saluto, sono entrato, sì, ti conoscevo molto bene Giulio. Ci siamo visti anche da poco, perché sono andato, che Nanni mi ha dato un cerchio della 147, perché c'ho ancora il routino. E quindi mi ha regalato un cerchio e l'ho visto a Nanni, a Giulio l'ho anche salutato. Molto trascurato era quel ragazzo, Roberto, molto, molto, molto, molto. Cosa vuol dire trascurato? Io ti posso dire, anzi, devo dire, se invece Nanni è grande lavoratore, infaticabile, lui era il più tranquillo di tutti, di quella famiglia. No, no, non trascurato nel senso, come pensi più tu, è che qualsiasi cosa aveva per lui, me era legico andare ai controlli, mai fatti analisi, mai qui, mai là, capito? Assolutamente. Ah, pare trascurato a livello medico. Allora, non andavamo da nessuna parte, nulla, non ho conosciuto mai ingresso all'ospedale, di pronto soccorso, di quello. Io mi ricordo 2 o 3 anni fa, non so se l'avevi saputo, cazzo della gamba, cioè, ormai se non va le tagliano la gamba, era da amputare la gamba, tu immaginati. Sì. Purtroppo, e mi dispiace perché ti ripeto, ci conosciamo da quando siamo nati, lui, il fratello e Rubabu, poverino Monama, il papà, la mamma. Io dovevo andare a farli, cioè dovevo andare, sono andato, c'ho anche le fotografie, infatti ho detto proprio l'altro giorno stavo parlando, lui c'ha 2 biciclette del padre e della madre, antiche, degli anni quando erano ragazzi, proprio un ricordo affettivo, e mi ha detto guarda, me le devi sistemare, non me ne frega niente di quanto spendo perché è un ricordo affettivo, ho fatto le fotografie, ho detto faccio un giro di conti e poi ti faccio sapere. Ho detto 2 settimane fa sono andato, ne ho parlato con Daniele, ho detto mi vediamo cosa fare un pochettino, mi che stasera mi chiama mio cognato e mi dice che è successo questo fatto. Io vi dico, non so, io so che la volta che ha avuto l'incidente alla gamba, non è niente, tra la gamba nera, tutta qua, un casino, e grazie a Nanni l'ha portato lui a Maragana, se non bucava buco. Va bene, dai, io vi saluto, tante cosce belle a tutti e vado a cenare, ciao. Ciao Fra, ben sentito, buona cena, anche io tra poco vado, vai Gianfra. E io Massuccio, e così è, non sappiamo quando, dove, ognuno c'ha quella data, c'è poco da fare, la cosa che è un po' dovrebbe far pensare che molti sono giovani, è che questa aspettativa di vita di cui molti parlano spesso per interesse sta rapidamente diminuendo. purtroppo è così. Allora, io non voglio entrare in merito perché oggi ho avuto una discussione, perché c'è troppa gente che magari pensa che io sia di rivoluzionari. Io ho tre amici, questi tre, tutti e tre morti di infarto, e un quarto si è salvato il calcio d'angolo. Voi pensate, fatevi i ragionamenti voi, io non voglio dire niente. Io invece voglio dire qualcosa che anche stranamente leggendo qualche giornale locale ci si rende conto che c'è uno smantellamento a 360 gradi della sanità, c'è poco da fare, perché se queste cose capitano è anche perché ci sono tanti paesini che non hanno più il medico, tanti ospedali che stanno funzionando come stanno funzionando. E certi posti in cui addirittura gli ospedali vorrebbero chiudere, tutto lì. E a tutte queste operazioni non si aggiunge alcun miglioramento. Quindi non l'hai detto tu, l'ho detto io questa cosa, perché la verità è che chiunque prova a chiamare anche il CUP, quelli si rende conto di quanta attesa c'è per fare anche esami banali. Hai detto bene, perché si stanno puntando tutti a un'altra cosa che non voglio dire io, perché se tu c'hai un problema prova a andare a pronto soccorso se ti fanno entrare, e prova a entrare con quell'altro problema che senti tutti i giorni a tutte le ore della televisione, c'ha le porte aperte, e pensa un pochettino, dai, non voglio fare l'eletto rivoluzionario io. No, non è esattamente così, purtroppo non è proprio esattamente così, lo sai, sono sempre bassi al contrario, però siccome conosco le cose, io ti posso assicurare che pagando, infatti è quello che fa scattare l'allarme, pagando per fare una determinata visita che molti dovrebbero fare, la risposta è sì, potremmo trovarle un posto, però a gennaio 2022, cioè a pagamento, non so se ti squilla qualcosa in testa, non sto andando con il CUP o così, sto andando pagando cifre che si aggirano intorno alle 250-300 euro, pronto cassa, capito? È come andare, che ne so, da un meccanico e sentirsi dire, guardi, c'è una spesa da 5.000 euro, vabbè, pazienza, facciamola. Però guardi, troppo lavoro, c'ho la gente fuori, anche vede la colonna che c'è lungo la strada, è tutta per venire in officina, quindi venga tra ai primi dell'anno prossimo, che magari ho tra due anni e sicuramente avrà qualcosa. Siamo a questo livello qua, quindi la gente si vede normale per queste cose. Esatto, credo. Io ti faccio un esempio, l'hai toccato tu col fatto, qualche anno fa mia figlia doveva fare un'ecografia e giocava a calcio, adesso non sta più giocando, e c'aveva una pubalgia, a pubalgia aveva fatto un tipo di coso panoramico, abbastanza, cioè non ce l'hanno tutti in questo sistema qua, sono andato a Sassari nell'ospedale e mi ha detto, no, qua devi aspettare non so quanti mesi, ho detto, come qualche mese? Ho detto, no, non c'è posto, devi aspettarlo qualche anno fa, stiamo parlando di 5 anni fa più o meno, dai, 5-6 anni fa. E dopodiché, guardi, se lei vuole andare, deve andare, non so quando, dopo una settimana, alle 8 del mattino a Tortolino, non so se sai dove Tortolino, tu, a che dovresti partire tu per arrivare alle 8 del mattino, oppure vada da qualcuno convenzionato, vado da qualcuno convenzionato, non facciamo nome perché tanto sono anche amici, ha detto no, non c'è posto, neanche a parlare. Alla fine però mi ha detto, guarda, se vuoi c'è un'altra possibilità, a pagamento, tanto facciamo a pagamento, stasera bene, va, sì, pronti, e me l'ha fatto. Sì, però attenzione, forse non mi ha ascoltato bene, questo succedeva, che ne so, l'anno scorso, ma adesso la situazione è talmente degenerata che lo stesso caso non ti dice più, guardi, spenda 100 euro, vada, si faccia la visita, buona zarzicchia. Adesso per certe patologie, tra l'altro le più importanti, sono tutti con lavoro programmato per un anno, cioè i privati, dico pagando, andandoci lì con i soldi in bocca, ecco, non ti vogliono. Questo dovrebbe aprire un po' le menti e dire, ma come? Io sto facendo sacrificio, pagando quello che mi chiedono, non sto neanche facendo contrattazione perché neanche lo puoi fare. se mi buttano fuori da lì, e da chi vado? A Milano? A Roma? Mi devo prendere l'aereo? Ecco, se mi c'è solo a Cagliari, mi è già capitato, per dire, prendo la macchina e me ne scendo a Cagliari, non c'è problema. Ma qua la situazione è veramente drammatica, capito? E questo è per chi c'ha i soldi per fare le cose, figurati per chi non c'ha i soldi. No, lo so, ma io ti faccio un esempio, la sanità, diciamo, è il punto più tragico perché ne vale la vita di una persona. Claudio è venuto da me e mi ha chiesto, devo fare una carta d'identità urgente, ho detto aspetta che c'è una persona carissima che ci può aiutare. Ho chiamato a lui e ho detto no, guarda qua, lascia perdere, non c'è modo di fare. Se vuoi tagliare la testa al toro, vai a Tutubella. È andata a Tutubella e gli hanno fatto immediatamente la carta d'identità. Sì, perché allora c'è tutto un giro di cose, a parte che c'è anche una dirigenza che sta decadendo in una maniera micidiale, ma poi c'è noi siamo i più vecchi d'Europa dal punto di vista proprio amministrativo, nel senso dell'età media dei medici, degli impiegati e così via. Questo perché è stato bloccato per tanti anni, pensando di fare economia, il cosiddetto turnover. Quindi sai, quando ti si rompe la macchina, tu vai e ne compri subito un'altra, e l'altra macchina o la versi o te la metti, che ne so, a fare qualcosa d'altro. Ecco, questo da noi non è avvenuto, e quindi adesso, a distanza di alcuni anni, stiamo avendo un colpo di proporzioni micidiali, perché anche in Sardegna, ma anche da altre parti, ci sono paesi che oramai non hanno più un medico di famiglia, e quindi questi qua come fanno? Sentivo una storia di una signora che ce l'hanno mandata non so dove per fare una semplice radiografia, cioè, ma stiamo veramente raggiungendo i peggiori limiti della sanità, tenendo presente che tra l'altro la sanità e il diritto alla salute è uno degli articoli della Costituzione. Adesso tutti dicevano che c'erano questi Osseno, lì a Cagliari, che erano tanto bravi, finalmente il cambiamento. Cambiamento sì, c'è stato indubbiamente, peccato che sia in peggio. Sì, aspetta, facciamo la Natalina, vai Natalina. Comunque sto notando una cosa strana da parte mia, della mia stazione. Il QRM in questi giorni è molto più basso delle altre volte, adesso per dire è sceso a 4, normalmente ero a 6, 7, in certi casi anche a 8, oggi è 4, quasi 4 e mezzo. Guarda, il ciò ci allontana da un discorso pericoloso, fortunatamente. Io ti posso dire una cosa, che sono stato qualche settimana a girare lì una radiolina a cercare un disturbo, ma allontanavo e spariva, andavo da una parte e spariva, proprio tipico QRM, no? La scarica. Alla fine ho provato a staccare un caricabatterie di quelli della, non è Baofeng, è un'altra marca, per caricare un portatile. Ho staccato quello, miracolo, sparito tutto. Quindi tutti i lamenti di quel QRM, può essere qualunque cosa, a cercarlo, guarda, è una caccia alla volpe, però è sicuramente uno di questi attrezzi, per quanto banali, tu pensi cosa c'è dentro un alimentatore, un riduttore, un coso lì su alcuni, c'è anche qualche piccolo trasformatorino, insomma una cazzata, e invece no, per un condensatore non messo, per un diodo difettoso eccetera, succedono queste cose. Chiamiamo, come si dice la notizia, Capitan Ventosa, ti ricordi? Quando c'era per la fine abbiamo scoperto il problema, era l'ascensore, il motore dell'ascensore. Sì, ma anche lì c'era cazzate, avevo trovato un radiamatore eccetera, ma certo che i radiamatori disturbano, io lo dico sperando che non ci sia qualche interessato che ascolti, ma è certo che i radiamatori disturbano l'apertura dei cancelli, perché i radiatori sono anche a 433 800, addirittura credo che adesso a 433 900 che la frequenza dei telecomandi ci sia qualche stazione che trasmette di continuo, perché lì siamo in stato secondario. Ma dimmi tu, questo cacchio di costruttori che vanno e vengono soprattutto autorizzati a fare i telecomandi a 433 è una cazzata veramente ciclopica. Ecco, fortunatamente c'è qualcuno che se n'è andato sugli 800 adesso a farli, perché veramente tu stai tranquillo, tu fai anche l'esperimento, fai un portatilino del cavolo a 433 e 800, prima la portante, sta tranquillo che quello che c'è non lo apre. Sì, è verissimo, è proprio, uno si stava lamentando, io gli ho letto a 433-200 l'apertura del cancello, ecco, ci aveva chiamato di vicino, ma certa gente scansiona la frequenza del telecomando delle macchine, come si chiama? Quelli che vogliono rubare le macchine si vanno nei garage, aspettano che viene il tipo con lo scanner e cercano di rilevare la frequenza del coso e poi si aprono la macchina. Sì, vabbè, di lì è anche una pressione un po' diversa, quella erano magari le prime, che bastava registrare il coso, il codice e l'aprivi. Adesso ci sono le rolling code che cambiano in continuazione i codici. Però il problema è sempre lo stesso, comunque, il fatto di allocare delle frequenze insieme che non ci dovrebbero stare. E quindi nasco in casini, ecco. Ma queste cose poi anche un bambino le capisce, e chi fa queste cose che non le capisce. Sì, assolutamente. Allora, a me mi sono già capitate due macchine in officina, una probabilmente forse viene domani a ritirarla, e questa qua c'ha la scheda, le Renault c'hanno la scheda, sono state le prime macchine con la scheda dagli anni, diciamo gli anni 2000 hanno iniziato a portare, è un sistema abbastanza efficace di coso, di criptatura, nel senso per non rubarti la macchina, perché non ha neanche chiave, perché c'è il pulsantino, devi infilare la scheda, legge la scheda, schiacci il pulsante, start, o stop, se devi spegnere, parte così. Cacco, questa macchina l'hanno rubata e l'ha ritrovata a Guspini, non si capisce come abbiano fatto a rubarla, perché la scheda poi ce l'aveva lui, l'ha rimessa, rifunziona, eccetera. Poi mi hanno portato a questo, però non l'ha ritrovata, ha ritrovato i pizzi, zona di perfugato, cosa del genere, una Giulietta, che quella c'ha un sistema lo stesso abbastanza efficace. Il Fiat Code 2 è un sistema molto evoluto, anche se ormai ti aprono tutto, l'hanno rubata senza rompere niente, ha trovato la macchina tutta smontata per prendere i pezzi, e non è l'unica, perché di Giulietta mi hanno detto che ne hanno rubato un paio qua in zona. Io ho visto la televisione rubando non una Giulietta, che è una macchina diciamo economica, un Mercedes classe S, stiamo parlando di macchine da 300.000 euro, 250.000 euro, c'hanno il GPS incorporato, nel senso automaticamente se tucchi la macchina parte il segnale, questo è entrato dentro, ha aperto la serratura con una di quelle chiavi tipo cassaforte che si sollevano i pistoncini, è entrata dentro, siccome è una chiave cilindrica in quel tipo di macchina, con una chiave che la usi tipo una cassaforte, ci sono dei cursor, delle cose tipo potenziometro che ruoti, si sollevano queste, l'ha aperta, come è entrata nell'accendi i sigari, ha infilato un disturbatore di coso, di GPS, ha attaccato la spresa OBD della macchina e ha messo in moto, 28 secondi ci ha messo a portare via la macchina. Infatti a me questa cosa non è mai capitata, perché soprattutto prima, quando c'erano le prime macchine che erano in poche, erano di furto, io quando andavo a mare mettevo sempre l'antifurto e puntualmente la macchina ovviamente la ritrovavo col vetro rotto, ma siccome era assicurato non me ne fregava tutto. Avevo progettato e costruito, allora c'erano le sirene elettromeccaniche che facevano un casino micidiale, no? Un antifurto semplice, era quasi elettromeccanico, perché era relè. Tu potevi fare quello che volevi, però se aprivi lo sportello l'allarme era istantaneo, cioè non c'era modo di disinserirlo, anche se l'aprivo io proprietario, avevi circa un secondo per bloccarlo e se sapevi cosa dovevi fare, ma siccome non c'era niente da guardare, interruttori invisibili non se ne vedevano, e quindi ovviamente il ladro rimaneva a bocca asciutta, perché non poteva stare così con una scena del genere attaccata alla macchina, e non è mai stata violata dal punto di vista di portarsela via, ripeto, solo finestrino rotto e basta. Se la tieni in un posto, diciamo, abbastanza controllato, se tu te ne vai a plantare una a barare le ricette bianche, tu apri subito il cofano dove c'è la scena, prendi la schiuma e la butti, in 10 secondi hai isolato il corso. E io ho visto macchine rubare, visto, nel senso, gente che me l'ha raccontato, che gli hanno smontato la macchina, gli hanno staccato la marmita, quella è andata a metterla in moto, gli hanno smontato una 156 nuova, gli hanno staccato dal catalizzatore in poi la marmita intera, è andata a mettere in moto, ho sentito questo rumore. Io ti dico, non ho mai capito come cavolo fanno questa della scheda, perché con la scheda devi infilare proprio una, non so se l'hai vista la scheda della Renault, non è come le altre macchine, è una cosa proprio specifica per la Renault. Non ho capito come abbiano fatto a rubare quella macchina. Quelli sono gente anche, siccome sono molto specializzati in queste cose dell'est, tu li sai, no, che c'è la banda dal banco, ma di quelle cose lì che violano i tuoi cosi. Hanno inventato anche quello dei cosi lì, del contactless, quella affare lì che hanno PostePay, anche altre carte, tu praticamente a posto di digitare il codice metti la farina lì, eccetera. Questi passano con la zanetta che dentro c'è uno scanner, no? Un computerino, sicuramente qualche Raspberry, cosa di quel genere lì, che intercetta, fa finta di essere un POS. Quindi passando vicino, praticamente lui mette la richiesta massima, che credo che sia di 20-25 euro. Quindi figurati, quello si fa una bella passeggiata e ogni 5 minuti di 20-25 euro, questo si fa quello che in Sassare si dice la giornata. Sono semplicemente degli scanner per quel sistema lì di certo deve passarti vicino, perché già lo sai che le distanze sono minime, questo è molto sensibile, riceve il segnale, risponde e autorizza il pagamento. Adesso infatti sia le poste sia tanti altri in contemporanea al prelievo mandano istantaneamente un segnale anche sul telefono che c'è avviso prelievo, eccetera eccetera. Quindi se uno si guarda intorno, ho visto quello che ricordo Zanetto, capace che lo freghi pure, ecco. Adesso ti racconto un'altra cosa, poi chiudo perché vado a mangiare. A Napoli, lo sai cosa hanno fatto? Ci sono le cambiamonete come ce le abbiamo noi da quasi tutte le parti, dai. Questi qua hanno preso i 20 euro e andavano con i 20 euro a cambiare, prendevano pure i 20 euro e ci scrivevano, erano fotocopiati in parole povere, riproducevano solo la parte in alluminio, quella parte lucida, cioè presente nella e c'era scritto in grande facsimile, per cui se te ti ferma la polizia o chiunque, tu c'hai dei soldi dove c'è scritto facsimile. Hanno fatto più di 3 milioni di euro di furti, di monete, non si riusciva a capire ma che fanno a entrare a prendere queste cose, hanno stampato centinaia di 20 euro, per non dire migliaia, e andavano in giro così, nei cambiamonete. Alla fine hanno scoperto che il macchinario non riconosceva la moneta falsa, cioè la cartamoneta falsa, era soltanto calibrata per riconoscere questa tracciatura d'alluminio. Alla fine adesso le hanno modificate. E loro ti fermavano la polizia, dice no, questi sono soldi, cioè non puoi dire che sono soldi falsi, perché c'è scritto facsimile, e hanno fregato 3 milioni di euro questi napoletani. Vabbè, infatti adesso è tutto telecamere, tutto cosa, ci sono dei sistemi particolari, poi ci sono quelli che fanno l'attacco di forza brutta, che si rubano magari un trattore, eccetera, mettono le catene e se ne portano via direttamente il banco, ma anche se non serve a niente, poi su quelli moderni istantaneamente esplode, anche se ne butti tutto il muro, però le monete si distruggono perché vengono colorate, quindi non le puoi più usare. Vabbè, dai, ormai è tardi a mangiare, io ti saluto Gianfranco, grazie del QSO, non so se Natalino ci sia ancora, se non saluto anche a lui, ci sentiamo alle prossime, ciao, buon proseguo di serata, ciao ciao. Ok, anche io scappo via, ciao, alle prossime, ciao Natalino, se all'ascolto.